si può fare. Cronache da un paese migliore. Sì, può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, buona domenica, ben ritrovati all'appuntamento della tarda mattinata su Radio 24. Il fine settimana cerchiamo di invertire con le nostre piccole grandi notizie, buone notizie della settimana, di invertire il trend della cronaca che ci lascia sempre un po' scoraggiati. Allora iniziamo subito con qualche buona notizia di questa settimana. Ah, finalmente, domani a Milano si potrà anche assistere all'abbattimento del famoso ecomostro, quello dei mondiali d'Italia 90, ve lo ricordate? Se ne sono occupate milioni di trasmissioni. L'albergo che era stato costruito per i mondiali di calcio d'Italia 90 verrà abbattuto, almeno inizierà l'abbattimento, non so se sarà anche completato, lunedì alle 14.30 nella zona del Parco Agricolo Sud, per chi conosce Milano. Insomma, la delibera del comune del novembre scorso, a fronte dell'abbattimento da parte della proprietà privata, insomma, si aprirà una zona verde in questa zona che si chiama zona Monluè di Milano. Si potrà anche assistere, bisogna andare in via Fantoli al 28 e si potrà stare lì a vedere l'ecomostro che cade. A Sorrento approfittatene, amici ciclisti, perché il comune vi dà 100 euro se scegliete la bici elettrica, insomma un contributo per diffondere nelle famiglie sorrentine l'uso della bicicletta pedalata assistita, 100 euro per chi l'acquista, e quindi approfittatene. L'ultima segnalazione viene da Palermo, proseguono le iniziative per integrare i cittadini stranieri, bambini però nati in Italia, iniziative simboliche, cerimonia pubblica per conferire la cittadinanza a 12 immigrati, l'ha fatta il neo sindaco Leo Luca Orlando qualche giorno fa a Palermo per 12 bambini stranieri nati in Sicilia. E adesso noi aspettiamo anche i vostri interventi all'800 24 00 24 in diretta come ogni domenica a quest'ora per commentare e per raccontare le vostre buone notizie della settimana. Non dimenticate di iscriverci anche su Facebook, si può fare trattino Radio 24. E poi c'è la segreteria telefonica dove continuano ad arrivare i vostri messaggi per salvare l'Italia. Oggi tutti gli economisti hanno una loro ricetta per salvare l'economia mondiale. La realtà è una: non si può salvare l'economia con i consumi. Il mondo è saturo di ogni bene. Solo la storia del passato ci può insegnare che bisogna tornare al risparmio e non al consumo forzoso. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 800 28 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Mi sono rotto, io mi sono rotto. Non ho più voglia di abitare lo stivaletto. Non ha più senso rimanere, grazie di tutto. Aspetto ancora fine mese e poi mi rimetto. Tanto il mio lavoro è inutile, diciamo futile, essenzialmente rimovibile, sostituibile, regolarmente ricattabile. Il mio lavoro è bello come un calcio a linguine dato da un toro. Il mio lavoro è roba piccola, fatta di plastica, che piano piano mi modifica, mi ruba l'anima, dice il lavoro rende nobili, non sopportarsi, sicuramente rende liberi di suicidarsi. E io mi sono rotto, io mi sono rotto, non ho più voglia di abitare lo stivaletto, non ha più senso rimanere, grazie di tutto, aspetto ancora fine mese, poi mi dimetto. Aspetto ancora, poi mi dimetto, precario il mondo. Daniele Silvestri descrive così lo stato d'animo di chi, insomma, si sente fuori dal meccanismo, quello del lavoro, del posto fisso, perché non ce l'ha, oppure perché magari si è stufato di vivere sempre sulla base delle necessità, casa, lavoro, bollette, automobile. Un fenomeno, quello del mollo tutto e me ne vado, che insomma se ne parla da un po' di tempo. Forse proprio la crisi che viviamo in questi mesi sempre di più rende questa scelta una cosa concreta, una via d'uscita, una soluzione praticabile. Se ne parla in questi giorni, ieri e oggi, a Torino, dove è stato organizzato un ufficio di scollocamento. Ne parliamo con Paolo Ermani, autore con Simone Perotti del libro Ufficio di scollocamento. Buongiorno. Buongiorno. Quanti sono quelli che passano alla pratica? Insomma, perché davvero che hanno la forza di dire insomma, si può fare, si può vivere in modo diverso, si può venire da voi all'ufficio di scollocamento per tentare una strada diversa. sono sempre di più e saranno sempre di più, perché questo sistema ormai è in rotta e quindi non è possibile più pensare di risolvere i problemi con vecchi metodi, tra l'altro metodi che dimostrano chiaramente di non risolvere assolutamente nulla, anzi di aggravare i problemi. Quindi le persone non solo sono tante adesso, ma saranno sempre di più, che decidono di abbandonare la nave che sta affondando. Cosa succede nei vostri incontri che fate, insomma, in giro per l'Italia per parlare di questo? Come funzionano? Chi sono le persone, per esempio, che vengono? Che età hanno, professione, provenienza? Le persone sono le più disparate, sono persone di tutte le età che o hanno un lavoro o lo cercano o lo vogliono cambiare, proprio di tutti i tipi. E le persone che arrivano chiedono di avere informazioni, esempi, e quello che noi offriamo sono proprio questi, esempi concreti di chi si è già scollocato e dimostra concretamente che un'altra possibilità c'è ed è praticabile da subito, senza aspettare niente e nessuno, perché qui a forza di aspettare stiamo andando tutto. Ecco, ma normalmente il lavoro, insomma, è un miraggio e quindi è un qualche cosa che si desidera perché è necessario per una serie di ragioni. Qual è il motivo per cui invece uno dovrebbe scollocarsi? Qual è la luce in fondo al tunnel che voi provate a raccontare anche con questi casi concreti? Innanzitutto il lavoro è ormai diventato purtroppo solo esclusivamente il poter avere del denaro per acquistare tante cose del tutto inutili, superflue, che poi alla fine non servono assolutamente a essere più felici, a essere più soddisfatti. Ci sono tantissime persone che sono insoddisfatte del lavoro che fanno, oppure tantissime persone che non hanno lavoro ma che vorrebbero avere un lavoro che dia più significato alla loro esistenza e non sia solo la possibilità di avere dei soldi per appunto comprare cose. Quindi di esempi e di possibilità ce ne sono tantissime, non sono quelle che dicono al telegiornale o di cui parla la televisione, ma ci sono tantissime persone che sono già scollocate, che lavorano in maniera diversa, e ci sono tanti lavori che si potrebbero fare che non sono, diciamo così, nella pubblica opinione, ma che sono presenti, e sempre più persone si stanno rivolgendo a queste alternative. Cioè voi dite, insomma, il lavoro è necessario solo se, insomma, il lavoro come lo conosciamo adesso, se uno si mette, insomma, se uno spende e va dietro ai consumi imposti più o meno dalle mode, dalle pubblicità, invece si può spendere meno, consumare meno, quindi avere meno bisogno del lavoro tradizionalmente come l'abbiamo conosciuto, e magari dedicarsi all'autoproduzione. E quali sono alcune di queste storie concrete che vengono raccontate in questi seminari che andate facendo in giro per l'Italia? Le storie concrete, noi siamo abituati a essere sempre diretti e a dare il nostro esempio. La storia concreta potrebbe essere la mia. Io, quando dovevo decidere di fare un lavoro piuttosto che un altro, ho deciso di andare a lavorare nel settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico, ma stiamo parlando della fine degli anni Ottanta, quindi quando all'epoca di tutte queste cose non se ne parlava per niente, anzi, quando io esplicavo questo mio desiderio la gente pensava che fossi completamente scemo, completamente impazzito, e invece io con una certa caparbietà, diciamo, ho cercato di lavorare in questo settore nel quale lavoro da più di 20 anni, un settore che è bellissimo, che mi dà moltissime soddisfazioni, che mi dà da vivere il giusto. Io non ho nessuna pretesa di stipendi particolari e sto molto bene, ho conosciuto tantissime persone interessanti, ho fatto tantissimi lavori che mi hanno insegnato molto, sì. E quindi questo è possibile, tra l'altro non lo dico solo io, ma sì. In Germania per esempio ci sono 300.000 occupati nel settore della biodilizia, altrettanti nel settore delle rinnovabili, quindi insomma sono in ottima compagnia. Cosa risponde Ermani a chi dice che, insomma, queste sono cose che possono fare solo i ricchi, è facile scegliere, mollo tutto e me ne vado se uno ha i soldi da parte? Ma guardi, questa è una delle più grosse fandonie e giustificazioni che ognuno si può dare. Io conosco io stesso, ma comunque conosco tantissime persone che non hanno assolutamente tutte queste, che non sono miliardari e che anzi persone umili che guadagnano il giusto significa poco per quello che ci dicono dovremmo guadagnare, e fanno dei lavori interessanti, fanno una vita soddisfacente, non sono stressate, non sono così alla ricerca di chissà cosa e vivono una vita degna di essere vissuta. Quindi questa dei soldi ormai è veramente una giustificazione, una scusa che non regge più. Ufficio di scollocamento, Paolo Ermani, Simone Perotti, chiare lettere, un libro ma anche una serie di incontri in giro per l'Italia. Grazie Ermani per essere stato con noi. Grazie a voi. E noi vi chiediamo, 800 24 00 24, avete mai pensato che lo scollocamento possa essere un fatto positivo? Pensate che la strada insomma, proposta dal nostro ospite possa essere anche la risoluzione dei vostri problemi? 800 24 00 24, tra poco. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Avete presente i film americani con i carcerati che lavorano sotto il sole lungo l'autostrada? È un po' questa l'immagine che abbiamo in testa quando pensiamo all'impiego di detenuti, insomma galeotti, carcerati, chiamateli come volete, impiegati in lavori socialmente utili. Ma la realtà può essere anche un po' differente. Grazie al protocollo firmato tra l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e il DAP, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, è partito un progetto per impiegare i detenuti di circa 200 penitenziari italiani in lavori sul territorio. Insomma, dalla raccolta dei rifiuti alla manutenzione degli edifici e dei parchi. Una buona notizia per tre, perché fa bene al territorio, fa bene ai comuni che non devono spendere quasi niente. Adesso vedremo come è esattamente il progetto. E poi fa bene anche ai detenuti che insomma sono impiegati in lavori utili, imparano qualcosa. Insomma, poi è sempre meglio stare fuori che dentro il carcere. Ma sappiamo che una delle funzioni del carcere è anche quella della riabilitazione delle persone. Ne parliamo con Flavio Zanonato, sindaco di Padova, responsabile sicurezza per l'ANCI. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. Zanonato, bellissima iniziativa. L'idea non è che di per sé sia una novità, però poi succede spesso che questi progetti non riescono ad andare in pratica su vasta scala. Voi adesso invece lo rilanciate con forza, ci provate. Ci racconti come nasce questo progetto e come dovrebbe funzionare? Allora, l'idea, come nasce, lo ha detto lei raccontando un po' la storia, nasce dal rispetto di un principio costituzionale: la pena deve puntare alla rieducazione del detenuto. Il rischio è invece che la pena serva come università per il crimine. Il lavoro è uno degli strumenti attraverso cui si può reinserire il detenuto, prima in una fase di semilibertà e poi, quando ha scontato la pena, con la possibilità di avere un'occupazione, un lavoro, una dignità. Questa è l'idea di fondo, no? Sì. E i settori, sì. Come funzionerà in pratica? Esatto. Allora, c'è sia il lavoro all'interno del carcere. A Padova, per esempio, abbiamo la pasticceria che fa degli ottimi panettoni, sono molto apprezzati, si chiamano Giotto. Sì. Abbiamo un call center, uno può telefonare e all'ospedale in realtà gli risponde un detenuto che è in grado di fare prenotazioni delle visite, di dare istruzioni su come deve fare, e infine abbiamo delle attività di cablaggio e di montaggio, si montano oggetti. Questi sono detenuti che rimangono permanentemente. Invece il progetto, questo di cui parliamo noi, è per andare all'esterno e lavorare all'esterno, sul territorio. Quindi è uno stadio ulteriore di affidamento, fiducia particolare al detenuto che può lavorare. Cosa usiamo? Usiamo i buoni o voucher INPS. Il comune li compra a 10 euro uno. Al detenuto andranno 7,50 euro, gli altri 2,50 ma per l'assicurazione e la previdenza, e si possono impiegare con una certa duttilità e facilità. L'accordo, le carceri sono circa 200 in Italia, quindi noi pensiamo che in 200 realtà comunali si possa usufruire di questa attività. Non è proprio gratis, attenzione, è pagata in modo dignitoso. E per fare dei lavori che normalmente i comuni o non fanno perché non hanno i soldi, non ne hanno abbastanza per fare, oppure sì, si affidano ad altri tipi di cooperative, quelle che noi chiamiamo cooperative di tipo. Ecco, in quali settori? Perché io ho fatto alcuni esempi, territorio, ambiente. No, gli esempi, ma può essere anche una biblioteca, riordine, può essere tutto, anche aspetti culturali. La caratteristica della episodicità, cioè non devono essere lavori che vanno affidati a un lavoratore permanente. Per esempio, riordinare una biblioteca può essere un lavoro da affidare. Naturalmente si tratterà di costruire una squadra di 3 persone, 2 non sono persone che hanno problemi con la giustizia, il terzo un detenuto, e all'interno di questa squadra riordinano e classificano i libri di una biblioteca. Si può pensare al verde indesiderato, come lo chiamiamo noi, le erbacce lungo le strade, si riduce, ma al giardinaggio, che è già un'attività che ha una sua qualità. Noi pensiamo di far precedere il periodo del lavoro a un periodo di formazione breve, un paio di settimane, in modo che si acquisti una disponibilità anche professionale a svolgere alcuni lavori. Insomma, possiamo davvero dire che è una buona notizia per te, per i detenuti, perché magari imparano un lavoro anche se episodico e temporaneo, per i comuni che con una spesa minore di quello che sarebbe impiegare una normale forza lavoro riescono ad avere questi servizi espletati, e poi anche proprio per l'ambiente, per il territorio, per le biblioteche, per i comuni, per chi potrà beneficiare di questo. Sindaco Zanonato, che dire, a Padova ci siete riusciti, ci sono esperienze anche a Milano e Vibo Valentia, staremo lì a vedere se e quanti saranno i comuni invogliati da questa iniziativa. Cosa deve fare un sindaco all'ascolto interessato da questa iniziativa? A chi deve chiamare? Quale numero di telefono deve fare? Beh, e adesso il numero di telefono dell'Anci a Roma non me lo ricordo. Comunque contattare l'Anci. Oppure se qualcuno vuole chiamare, chiama in comune a Padova, dove sono disponibile. E questo è il numero 049 8205200. Lo ripeto, 049 8205 200. Meglio di così. La mia segreteria e poi vi passo, spiego tutto. Meglio di così non si poteva fare. Grazie sindaco Zanonato, responsabile sicurezza dell'Anci, e questo è il progetto, l'avete sentito. Cari sindaci, dove ci sono penitenziari nel vostro comune, fatevi avanti. Adesso è il momento dei consigli invece dell'Università del Saper Fare, il movimento per la decrescita felice. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita. Siamo ossessionati dalla crescita economica, eppure per vivere bene non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. Diceva Frank Zappa che un paese non è un vero paese se non ha una sua birra e una compagnia aerea. Aiuta ad avere una squadra di calcio o altre cose, ma alla fin fine ciò di cui si ha più bisogno è una birra. Mettiti una mano sul cuore allora e aiuta anche tu il paese in questo momento difficile. La prossima volta che ti invitano a farti una birra, prendili alla lettera e fatela in casa. Come? Ce lo racconta Mauro da Garbagnate Milanese. La birra in casa la possiamo fare semplicemente perché è più buona di quella commerciale e costa di meno, per cui già questi mi sembrano degli ottimi motivi. La birra in casa, bene o male, costa 1 euro al litro a spanne, poi può costare qualcosina in meno, può costare qualcosina in più, dipende fondamentalmente dagli ingredienti che ci si mette dentro, però diciamo attorno all'euro al litro. Quasi nessuna birra commerciale costa così poco, e quelle che costano così poco non sono praticamente bevibili. Il processo, quello semplice, quello basilare, diciamo così, è semplicissimo, alla portata di tutti. Si compra il kit di malti già luppolati, la ricetta già pronta, praticamente basta aggiungere soltanto l'acqua dentro la pentola della pasta, per evitare ulteriori spese in attrezzature. Si utilizza il mestolo, la frusta per amalgamare lo sciroppo con l'acqua, dopodiché, dopo aver raffreddato tutto quanto, lo si mette nel fermentatore, che è l'unico oggetto veramente indispensabile per fare la birra in casa. È un bidone di plastica della capacità di circa 30 litri, del costo di circa 30-40 euro, e che servirà per far fermentare la birra insieme al lievito che dovremo mettere dopo che il mosto sarà raffreddato. Dopo una settimana la birra è già pronta per essere imbottigliata. Dovrà aspettare 15 giorni a temperatura ambiente per farla rifermentare ulteriormente in bottiglia, dopodiché una quindicina di giorni, meglio un mese al fresco per farla riposare e poi è pronta da bere. Il segreto del birraio casalingo è la coltivazione del lievito dalle birre commerciali migliori, diciamo così. Coltiviamo il lievito dal fondo della bottiglia per riutilizzarlo e dare il carattere delle birre più famose, più importanti alle nostre birre casalinghe. Avete ascoltato La birra fatta in casa. È la decrescita felice e si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. 12:35 minuti, buona domenica, ben ritrovati. Si può fare cronache da un paese migliore, cari ascoltatori. 800 24 0024, vi aspettiamo in diretta. Vi abbiamo chiesto oggi, sulla base dell'esperienza raccontata da Paolo Ermani, Ufficio di Scollocamento, che è un libro ma è anche una serie di incontri in giro per l'Italia, se avete mai pensato allo scollocamento, cioè alla perdita del posto di lavoro, come a un fatto positivo, insomma, se l'esperienza di Ermani può essere per voi una soluzione anche ai vostri problemi. Spendere meno perché si consuma meno e forse anche meglio, e quindi non si ha più bisogno del lavoro tradizionale per come l'abbiamo conosciuto sin qua, anche perché purtroppo la crisi ci mette di fronte a questo. 800 24 00 24. Adesso però è venuto il momento delle nostre previsioni economiche, con l'avviso ai naviganti. Avviso ai naviganti. Si avvisano i signori naviganti a vela e motore che fossero bloccati in acque stagnanti o infestate di squali che le turbolenze degli ultimi tempi, provocati da una zona di alta pressione fiscale, verranno presto mitigate da un'insolita ondata di solidarietà e fantasia che porterà credito ed equità su tutta la penisola. Almeno, speriamo. E insomma, l'avviso ai naviganti di oggi è davvero un messaggio di fantasia e di utilità. Sentite qua, loro hanno creato una piattaforma di baratto da alcuni anni a favore delle imprese. L'idea è quella sempre solita dello scambio gratuito di beni e servizi, ma il meccanismo che hanno messo in piedi è talmente complesso ed efficace che vengono scambiati anche valori per centinaia di migliaia di euro. Quindi siamo proprio su un altro piano, dall'arredamento alla meccanica, dal turismo ai trasporti, lo smaltimento dei rifiuti, praticamente tutti i settori sono coperti. Come? Lo chiediamo a Guglielmo Panichi, che è direttore commerciale di Business Exchange Business, credo che si pronunci B per B. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Si pronuncia BXB. BXB. È difficile, ma si pronuncia così. BXB, perfetto. Allora, Panichi, come funziona? Io ho spiegato brevemente, però insomma ci spieghi il meccanismo, poi insomma parleremo anche di tante altre cose. Il 5 luglio c'è il meeting dei vostri associati, eccetera, eccetera. Però come funziona questo sistema che avete messo in piedi da qualche anno e che però sta andando alla grande? Sì, sta andando alla grande. Noi l'abbiamo iniziato nel 2001, copiando semplicemente dei modelli di business già esistenti negli Stati Uniti dal 1974, dove il barter, e questo è il nome corretto di questo modello operativo, già funzionavano da tanto tempo. È molto semplice. Noi oggi abbiamo un circuito creato in 11 anni di lavoro paziente certosino, all'interno del quale sono rappresentati 160 settori merceologici con circa 2500 aziende in tutta Italia. Chi è che dovrebbe entrare all'interno di un circuito del genere? Quelle aziende che vogliono incrementare le vendite, ma allo stesso tempo non vogliono avere il rischio commerciale che spesso si annida dietro un cliente. Ultimamente è un tema molto sentito. Sto parlando del rischio dell'insolvenza. Un'azienda entra nel nostro circuito se si candida per vendere alle altre aziende un prodotto o un servizio che è compatibile con le esigenze di acquisto degli altri soci. Quindi facciamo un esempio, non so, un mobilificio che volesse incrementare la vendita dei mobili perché il mercato in questo momento è in contrazione, entra nel nostro circuito e intanto la prima cosa straordinaria è che noi diamo dei fidi a tasso zero, ma sono veramente a tasso zero. Con questi fidi il mobilificio può acquistare dagli altri aderenti quello che vuole, dalle viti alle maniglie, alle serramenta, ai trasporti, agli imballaggi, alle autovetture. lo mettiamo in contatto con un associato che ha quel prodotto, siamo molto efficienti nel fare questo tipo di matching, e la cosa già molto sorprendente è che il mobilificio non paga le maniglie, non paga il furgone, non paga quello che va a comprare a prezzi di mercato, ovviamente. Questo debito che lui ha, sì, non lo ha nei confronti di quel singolo fornitore, ma lo ha nei confronti di tutto il circuito BXB. Per cui noi, per far pagare a lui quel debito, lo metteremo in contratto con altre aziende che ci chiederanno i mobili, e lui fornirà mobili in compensazione ad altre aziende del circuito. Ecco, cioè, voi è avete... una forma di baratto organizzato. È una forma di baratto nella quale, con queste credo oltre 2500 aziende che hanno aderito, cioè io ricevo un servizio da una di queste aziende, per esempio, e in cambio non devo dare il mio servizio, il mio bene a quell'azienda, ma a una qualunque di tutte queste aziende. Diciamo, in qualche modo voi vi fate carico di questi meccanismi di compensazione, il che rende ovviamente molto più facile questo baratto, perché altrimenti la possibilità che le due esigenze si incontrino direttamente sarebbe una bassissima probabilità. Esatto, facciamo invece proprio... in questo modo le probabilità crescono, e quindi sembra un mondo fantastico. Quali sono i requisiti per un'azienda per poter entrare nel vostro magico mondo, Panichi? Due, semplicemente due requisiti. Il primo è che si tratti di un'azienda sana. Ovviamente un'azienda a cui viene dato un fido a tasso zero deve essere un'azienda sana. Noi abbiamo una compagnia di assicurazione del credito, la più grande che c'è al mondo, che ci fa un'istruttoria e verifica che all'interno del circuito non arrivino delle aziende in cattive acque, questo è ovvio. Il secondo requisito è che l'azienda in questione si candidi per vendere un prodotto o un servizio che sia compatibile con le esigenze in acquisto degli altri. Quindi, se oggi si candidasse da noi un'azienda che vende missili, per quanto sana, io non la accetterei, perché nessuno... per ora non me li ha chiesto nessuno. No, a parte questioni etiche, ma insomma proprio è una questione economica, non avete acquirenti. Senta, ma noi in questa trasmissione ragioniamo spesso anche di crescita, di decrescita, insomma della possibilità di misurare, l'abbiamo fatto anche nella storia di apertura con Paolo Ermani, ufficio di scollocamento, insomma di misurare il benessere di una collettività anche senza il PIL, senza i fattori economici, senza certo. Misure economiche. Voi come vi sentite ad essere una azienda che offre un servizio così vitale per molte aziende italiane, però in sostanza non fate crescere il PIL, perché non essendoci scambio di denaro, di euro, il PIL non vi registra. Chi se ne frega può anche rispondere, tranquillamente. Anzi. In realtà il PIL si incrementa. Riflettiamo un attimo, supponiamo che io sia il famoso mobilificio di prima e che voglia fare una ristrutturazione della mia showroom per renderla più attraente, più bella per i miei clienti, ma in questo momento di mercato non me la sento di fare questo investimento perché la mia banca non mi concede quei finanziamenti che mi concedeva fino a qualche anno fa. Se io faccio invece parte del circuito e ho un fido a tasso zero, attraverso il quale io posso contattare un impiantista, un pavimentista, un muratore, un'impresa edile che mi fanno il lavoro e non devo sborsare soldi perché pagherò questa ristrutturazione con delle vendite incrementali che il circuito mi fa fare, in primo luogo non ho avuto accesso alla liquidità di cassa, in secondo luogo il lavoro mi è costato molto meno perché potendolo barattare con il mio magazzino io risparmio su quel lavoro il margine di contribuzioni che ho nella vendita delle mie mobili. Quindi ho incrementato il PIL per il valore dei lavori di ristrutturazione fatti che non avrei fatto se non avessi fatto parte di questo circuito virtuoso. Certo, perché chiaramente risparmiare da una parte consente di investire poi da un'altra. E quindi... Certo, perché quell'investimento sì. Mi rende il mio showroom più appetibile e incrementerò il fatturato anche perché è uno showroom più bello e più accattivante per i miei clienti. E poi comunque insomma non ci sarebbe niente di male se nel risparmio... Non essendoci crescita del PIL, ma c'è sicuramente soddisfazione per le imprese coinvolte, insomma, e quindi già questo di per sé è un fatto positivo. Abbiamo detto il 5 luglio c'è il meeting, cioè tra qualche giorno, insomma, dei vostri associati, credo che vi ritroviate a Bergamo. Vedersi in faccia, Panichi, è importante per voi perché il vincolo di fiducia ha un valore maggiore che rispetto alle normali transazioni economiche, oppure perché fate questi incontri, insomma? Guardi, dottor Maurizi, vedersi in faccia è fondamentale, perché al di là dell'efficienza e della genialità del meccanismo, che è assolutamente geniale e perfetto, quello che conta tra imprenditori è vedersi in faccia. Se io devo cambiare il mio fornitore di scatole, di imballaggi, voglio vedere in faccia chi sarà il mio nuovo fornitore, oltre a sapere che mi fa un buon prezzo e mi darà della merce perlomeno comparabile con quella del mio vecchio fornitore. Quindi noi organizziamo, faccia conto, ogni 3-4 mesi questi incontri in tutta Italia, dove invitiamo tutti i nostri associati, ma invitiamo anche chi vuole scoprire questo mondo. Anzi, io invito tutti quanti a collegarsi al nostro sito, che è www.bxb.it, dove può trovare tutte le coordinate del meeting e compilare un form per chiedere di essere invitato gratuitamente, per conoscere da vicino un mondo che si chiama baratto, ma non è baratto, capiamo che è una cosa molto più sofisticata del semplice baratto. Il baratto è, come diceva lei prima, io ti do una forma di cacio e tu mi dai indietro dell'insalata, ma quello non fa crescere il PIL. Sì. Quello che fa crescere il PIL è poter comprare un impianto fotovoltaico e non utilizzare il denaro, ma utilizzare il magazzino e darlo in compensazione. Certo. Questo fa crescere il PIL e crea opportunità di business. Noi siamo abbastanza complementari al sistema bancario, e laddove il sistema bancario tira i freni, noi cresciamo. Calcoli che noi l'anno scorso siamo cresciuti da 40 milioni di euro di scambi a 72 in un anno solamente, 70 milioni di euro di scambi tra aziende che prima non si erano mai conosciute tra di loro. Pensate, va bene, insomma, tutti a Bergamo il 5 luglio per il meeting di BXB. Grazie Guglielmo Panichi, direttore commerciale di BXB, Business Exchange Business. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a lei dottor Maurizio. E questo era il nostro avviso ai naviganti, insomma, chiamatelo come volete, il baratto di seconda generazione. Insomma, una storia interessante. Care imprese che siete rimaste incuriosite, fatevi avanti, perché questo è il momento. 12:46 minuti, il traffico, torniamo tra pochissimo. Si può fare cronache da un paese migliore. Sei più bello stamattina, con quell'aria strana un po' sonnata. Lascia il mondo alla rovina, che ti frega, siamo già partiti. Ma che vuoi di più, se la vita corre insieme a noi, verso il mare. In vacanza si può andare anche ad imparare qualcosa, è il caso del Parco delle Energie Rinnovabili che si trova in località Inano, in provincia di Terni, siamo in Umbria, dove, così promettono, ti rilassi e impari a risparmiare, insomma ti fai qualche notte nella loro azienda agricola nel cuore dell'Umbria, in un posto con un bel paesaggio e godendoti la buona tavola umbra, e porti a casa gratis anche una consulenza energetica sulle bollette di casa tua. Ne parliamo con Alessandro Ronca, che è direttore del Parco delle Energie Rinnovabili, uno dei fondatori. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, eccoci qua. Come avete iniziato questa esperienza originale, diciamo così, quantomeno, che noi suggeriamo anche come momento di vacanza, visto che adesso si comincia ad andare in ferie, come avete iniziato questa esperienza del Parco delle Energie Rinnovabili? Chi viene a trovarvi, tra l'altro? Chi è il profilo meglio dei visitatori? Ma noi cerchiamo di avere un ampio spettro di persone e rivolgere un po' il messaggio a un'area trasversale, cioè partiamo dai bambini della scuola materna e arriviamo ai signorotti dell'università della terza età, quindi diciamo, non ci facciamo assolutamente preclusioni, perché pensiamo che sia importante andare a toccare queste tematiche dal principio, ma che ci sia sempre tempo per poterlo fare, questo senz'altro. Da quanti anni esiste il parco? Il parco noi siamo aperti dal 2009, in realtà il percorso di autoapprendimento e di esperienza ne viene da prima. Esatto, è partito già dal 2002 circa. Senta, Ronca, ci faccia una visita virtuale di questo parco delle energie rinnovabili. Che cosa trova una persona arrivando lì da voi? Quali meraviglie energetiche o anche cose magari più banali, più semplici, si trova di fronte? Ma spesso, volentieri, a volte la prima reazione delle persone che vengono a visitarci è: ma dove sono i sistemi energetici? Perché li chiamate parco delle energie rinnovabili, in realtà non c'è questa immagine di trovare ettari di fotovoltaico, generatori eolici che troneggiano sull'azienda. E l'idea è proprio questa, cioè l'idea è stata quella di creare una struttura dove i sistemi energetici rinnovabili, ma anche le tecnologie, ma anche le soluzioni, i principi, siano la normalità. Se non ci sia una condizione di straordinarietà e quindi di grande evidenza, ma tutto abbiamo cercato di renderlo quanto più possibile integrato nell'uso e nell'attività di un'azienda agricola che era stata abbandonata negli anni 50. Quindi esistono sicuramente alcune connotazioni tecnologiche abbastanza particolari. Per esempio? Così giusto per incuriosirci. La cosa più importante è l'attenzione che è stata data nella riduzione dei consumi energetici, perché ancora oggi, nonostante siamo con livelli di tecnologia elevatissimi, tutti quanti in tasca noi abbiamo uno smartphone, che però purtroppo del quale conosceremo forse il 5% delle funzionalità, in realtà abbiamo un accesso a dei sistemi tecnologici che ci fanno sempre concentrare l'attenzione su come produciamo l'energia, cioè come possiamo produrre l'energia. In realtà la migliore energia è quella risparmiata. Esatto, no? Quindi sembra una chiacchiera sempre fatta e rifatta, ma di fatto non ce n'è, secondo noi, sufficiente attenzione. E quindi tutto il processo è stato quello di ridurre al massimo i consumi energetici, perché l'efficienza energetica non solo è più vantaggiosa in termini proprio di tecnologia, ma costa di meno. Quindi produrre energia costa 5 volte di più che risparmiarla, e se uno la misurasse costantemente con questa chiave di lettura, probabilmente il sistema energetico dell'efficienza sarebbe molto più quindi sicuro. Insomma, l'energia più rinnovabile che c'è è quella risparmiata. Senta, io ho detto che uno venendo da voi, oltre a farsi qualche notte nella vostra azienda agricola e quindi gustando un po' anche la buona tavola e il paesaggio umbro, porta a casa una consulenza gratuita sulla bolletta di casa. È così? Voi avete dei consulenti, insomma, sviluppate anche un minimo di attività di consulenza ad hoc per i problemi specifici che uno si porta dietro. Certo, diciamo che questo è un problema di tutti oggi, e quindi di fatto ne abbiamo fatto proprio una missione, una connotazione. Il fatto che chiunque venga in questo luogo porta le sue problematiche, quindi si può venire tranquillamente con la propria bolletta e con la propria planimetria di casa e discutere con noi di quali che sono le problematiche che vediamo maggiori in questo ambito, e vedendo direttamente quali potrebbero essere le soluzioni, anche perché a volte vedere di fatto un'applicazione di un solare termico, di un fotovoltaico, di un microeolico, di un sistema di generazione ad aria calda, un sistema di generazione a legna o un sistema di scambio, di ricambio dell'aria a flusso incrociato, ci sono tantissime tecnologie che spesso e volentieri noi abbiamo davanti agli occhi, quelle più evidenti, magari quelle che sono finanziate con i contributi, e magari siamo completamente distratti dalla presenza di alcune tecnologie che invece potrebbero essere una soluzione ideale per noi e avere un'applicabilità e un costo anche estremamente contenuto. No? Faccio l'esempio, per esempio, del collettore ad aria calda. Nessuno oggi, purtroppo non solo in Italia ma in generale, conosce questa tecnologia. Il collettore ad aria calda è un sistema di produzione per l'integrazione del riscaldamento economicissimo, insegniamo a costruirlo, si può costruire con i rifiuti, si può arrivare a costruirlo addirittura con delle lattine. Addirittura. No? E farselo e a farlo funzionante istantaneamente in casa, con dei costi ridicoli e con un'integrazione del riscaldamento interessante, perché si può applicare per esempio anche sugli edifici, si applica in parete, quindi non c'è bisogno di andare sul tetto, quindi anche edifici condominiali che spesso sono visti come una grande difficoltà, no? Diceva, vabbè, è facile farlo in una casa indipendente, in un condominio è impossibile. In realtà il condominio è il miglior luogo dove poter fare degli interventi, il problema è la coesione tra i condomini, che magari bisognerebbe investire. Ma qui ci vorrebbe un'altra trasmissione, Salvadanaio, che va in onda ogni giorno a mezzogiorno su Radio 24. Va bene, grazie, non resta che venirvi a trovarvi. Alessandro Ronca, direttore del Parco delle Energie Rinnovabili, avete anche un sito, lo diciamo, sì, così? Con piacere, è il sito sito nostro è www.per.umbria.it. Vi aspetto, è un grande piacere parlare con voi. Grazie. Per il parco delle energie rinnovabili, naturalmente. Grazie. E allora siamo in chiusura, non c'è tempo neanche per l'ascoltatore che era in linea. Mi dispiace, oggi abbiamo avuto qualche problema con le telefonate. Allora non resta che rilanciare l'appuntamento alla settimana prossima. Aspettiamo durante la settimana su Facebook le vostre notizie e segnalazioni. Si può fare Radio 24, anche alla segreteria telefonica il vostro messaggio per salvare l'Italia in un minuto, 800 28 12 12. I ringraziamenti Giorgio De Luca e Paolo Corleoni oggi in diretta, per la redazione invece Franco Piantanide e Andrea Piana che ha scritto insieme a me il programma. Grazie, buona domenica a tutti, anche da Alessio Maurizi.